Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Code e risse per aggiudicarsi l'affare in Italia a piumini firmati al prezzo democratico di 10 euro. Negli Stati Uniti le migliaia di prodotti in sconto per il tradizionale Black Friday. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Oggi a Essere Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Seguendo il filo rosso degli affari prenatalizi, viaggiamo al di qua e al di là dell'Atlantico, facendoci una domanda: corsa agli acquisti nonostante o grazie alla crisi? Ne parleremo nel primo dei nostri approfondimenti. Lo sconto imperversa, lo sentiremo appunto tra pochissimo, ma inizia a non bastare più come strategia di marketing. Nel focus sui trend della settimana parleremo allora della tendenza più innovativa al proposito, l'Happy Deal, lo sconto divertente. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità di questa settimana. Valentino lancia il museo online. Da domani aprirà una finestra sui 50 anni di attività dello stilista. Il sito avrà una tecnologia tridimensionale che renderà l'esperienza simile alla visita in un museo vero e proprio. 30 anni dopo il celebre spot con Nicola Arigliano, una delle pietre miliari del carosello, il digestivo Antonetto torna in TV. Nuovo volto della campagna, il trasformista Arturo Brachetti, che per la prima volta nella sua carriera presta il volto alla pubblicità. Sono Arunobu Murata, Santo Spada, Ludovico Loffreda e Camille Pfister i vincitori della sesta edizione di Next Generation, il concorso che la Camera Nazionale della Moda Italiana dedica ai giovani stilisti under 30. Per i vincitori, l'opportunità di produrre la propria collezione e presentarla sulle passerelle di Milano Moda Donna di febbraio. Il teschio ricoperto di diamanti, simbolo degli eccessi del mondo dell'arte. Sarà questo il pezzo centrale della prima retrospettiva di Damien Hirst alla Tate Modern il prossimo anno. A fare da cornice al teschio venduto nel 2007 per 50 milioni di sterline, una settantina di opere dell'artista, tra cui il famoso squalo in formalina del 1991. La Gran Bretagna dice addio alle strisce pedonali, sostituite da semafori, dossi, lampeggianti e avvisi sonori. Nate proprio a Londra negli anni 50, esportate in tutto il mondo, secondo gli esperti di sicurezza stradale, si sono trasformate in una trappola mortale, perché illudono il pedone di essere protetto e gli automobilisti tendono a ignorarle. La borsa della spesa. Forse fanno pure male. Gran parte delle strade nella zona nord-est di Roma sono andate in tilt già dalle prime ore di questa mattina, quando almeno 10.000 persone si sono riversate nella zona di Ponte Milvio. Una nota catena di negozi di elettronica offriva molti prodotti a prezzi ribassati. Italia, Stati Uniti, scene di ordinaria rissa per gli acquisti. Tutti a comprare in America per il cosiddetto Black Friday, il giorno in cui tradizionalmente parte la campagna saldi prenatalizi. Le vendite hanno fatto registrare un incasso record, 52,4 miliardi di dollari, in crescita del 16% rispetto allo scorso anno. Dati che ha subito fatto notare la National Retail Federation lasciano ben sperare per la stagione natalizia. Ma come? Non c'è la crisi, si chiedono in molti? Il fatto è che proprio perché c'è la crisi queste campagne promozionali registrano il sold out. Ma attenzione, fanno notare gli esperti, gli acquisti vengono anticipati, non moltiplicati. Si sfruttano gli sconti per comprare prima i regali di Natale. E saranno i dati di gennaio a dirci come sono andate veramente le cose, ci dice Sandro Castaldo, docente di marketing all'Università Bocconi.

questo risultato, deve fare la coda, deve azzuffarsi con altri, insomma. Quindi è un modello effettivamente americano che si sta diffondendo attraverso questo processo di globalizzazione del mondo dei consumi. Essere e avere. Siamo in studio con Essere e Avere anche per il focus sui trend. Continuiamo a parlare di sconti e caccia all'affare, ma aggiungendo un elemento in più: il sorriso, il divertimento. Oggi parliamo di Happy Deal, di sconto felice. Lo facciamo come sempre con la nostra esperta Patrizia Martello, docente di sociologia dei consumi, analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Acquistare prodotti scontati ormai non è più una pratica da nascondere, come avveniva fino a poco tempo fa, bensì da esibire. La caccia all'affare è diventata sinonimo di consumo intelligente, sobrio e responsabile. Ecco allora che nella giungla di sconti e di offerte emergono le promozioni divertenti, creative, quelle che in qualche modo strizzano l'occhio al consumatore, perché lo sconto imperversa, ma proprio per questo non basta più. Patrizia. Sì, che fare affari sia oggi una pratica smart e facile è ormai un dato assodato. Tuttavia, in cerca di più esperienze, è noto, siamo nell'economia dell'esperienza, nonostante o a causa del minore potere di spesa, anche il mondo degli sconti, promozioni, coupon, low cost in senso lato, comincia a caricarsi di un sovrappiù esperienziale, appunto poiché se di per sé l'offerta di un affare poteva diventare un elemento attrattivo, fidelizzante, eccetera, ora è una sorta di implicito entrato nelle aspettative dei consumatori. E mentre il retail offline si è evoluto ed è già molto maturo in termini di shopping experience, pensiamo al retailtainment, al pop-up e a tutti i modi di cui abbiamo a lungo parlato di intrattenere e sorprendere il consumatore, per l'e-commerce, compreso tutto questo mondo dei daily deal, gli acquisti online, che rimangono funzionali, veloci, ubiqui, si saltano le code, ci si annoia meno, il tema esperienziale appunto sta emergendo e si pone soprattutto per questo canale come un tema critico. Allora, Happy Deal è un fenomeno socio-economico di grande rilevanza da seguire attentamente, che unisce un approccio agli acquisti funzionali per spuntare il prezzo più basso alla dimensione soprattutto online e a quella ludico esperienziale. Parliamo quindi di offerte e sconti che, grazie ai social network soprattutto, consentono di innescare meccanismi di gioco con componenti di fortuna, di bravura, eccetera, di personalizzare l'offerta e di condividerla con la rete di riferimento. Ed ecco un primo esempio: l'e-shopping game di Sneak Peek. È un sito di social shopping, affari da fare con e grazie agli altri consumatori, senza prezzi. Dunque i prezzi non sono messi in bella mostra. I prodotti hanno un'etichetta e, proprio come si fa nei negozi, per vedere quanto costa si gira un'etichetta. Qui con un click si vede il costo, appunto girando un'etichetta digitale. Man mano che i vari acquirenti guardano il costo, il prezzo scende. Chi compra, chi decide di comprare, ha però pochissimi secondi tra il click di verifica e l'acquisto, che a quel punto fa sparire quella specifica offerta. Se si vuole comparare il prezzo con altri siti, evidentemente non c'è tempo e si perde l'occasione. Contemporaneamente si vede chi sta guardando che cosa in tempo reale. Ci sono proprio le facce dei nostri amici di Facebook e si sa chi ha comprato che cosa e si può rendere noto che cosa si è acquistato. Dunque, serendipità, si inciampa in quello che non si sta cercando, ma si trovano anche le offerte selezionate in base al proprio profilo, si gioca con gli amici a chi fa il miglior affare. Ancora la dimensione social declinata in chiave happy: più ti piace, meno costa. Terranova, marchio moda, ha lanciato l'e-commerce su Facebook. Più le persone hanno fatto like, hanno dichiarato al brand la loro preferenza per i vari capi messi in vendita sulla pagina, più quei capi diminuivano di prezzo. Dunque shopping online coinvolgente, divertente, con una componente di sfida, ma anche democratico. Più gente entra e meno si paga. A settembre, altro esempio, qui siamo nella GDO, siamo a Stoccolma, l'insegna Ika Vanadis ha ideato un'iniziativa per cui chi si registrava con un check-in nella pagina di Facebook del supermercato faceva aumentare in tempo reale lo sconto dei prodotti in offerta selezionati da acquistare quel giorno in negozio. Happy Deal significa dunque soprattutto affare a scadenza e a sorpresa. Questi sono i due elementi che sono un po' il filo rosso di questo mondo. Un esempio interessante è il servizio di Yux, boutique di moda design low cost online, che dura il tempo della pausa pranzo. Si chiama Yux Lunch Break Shopping. È pensato per le moltissime donne che mangiano rimanendo davanti al computer sulla scrivania. Arriva una inaspettata mail che propone questo nuovo servizio. Solo per te, la pausa pranzo non è mai stata così divertente. Oggi dalle 13 alle 14, si legge, ti regaliamo il 10% extra su tutti gli acquisti fatti con questo codice inviato personalizzato. Temporaneità, ma in modalità evento e offline per l'iniziativa in Brasile lo scorso maggio di Carrefour, la catena di supermercati francese, che ha organizzato la ora magica, la magica ora per 200 famiglie selezionate. Dunque, per un'ora le famiglie selezionate, intestatarie della carta fedeltà Carrefour, hanno avuto accesso esclusivo al negozio di Osasco con il 50% di sconto su tutti i prodotti non food, compreso un welcome coffee. Gli esempi offline non sono solo di negozi, ma anche di servizi che inventano giochi o comunque espedienti di intrattenimento da associare ad offerte e sconti. È il caso del sito di affari Living Social, che offriva agli acquirenti londinesi del deal taxi, dunque corse in taxi, due opzioni: o continuare la corsa oltre alla destinazione dopo aver pagato la prima, o un'esperienza casuale, e la scelta qui andava da corsi di cucina a gite turistiche. Per molti il low cost, un settore che vale in Italia 62 miliardi di euro, il 5% del PIL, è diventato una vera e propria filosofia di vita, trasversale e democratica, perché, lo sappiamo, il concetto di valore ormai non coincide più con il concetto di prezzo, anche se non sempre tutti la pensano così. Oggi la parola chiave è divertimento. Sentite allora questa clip tratta dalla popolare sitcom Camera Caffè. E voilà, sorpresa! Cos'è? Sono passato in agenzia, qua sotto si va a fare la settimana bianca. Oh, fantastico, Luca! Sembra anche un posto carino. E qual è l'albergo, questo? Oh, secondo te? Io ti faccio passare una settimana in una stanza d'albergo. Ma... non dirmi che hai affittato uno chalet. Ho preso un appartamentino tutto in legno. Ah, e dov'è? E questo qua che dà sulle piste? No, è un po' più fuori. Ah, vicino al palaghetto? No, un po' più fuori ancora. Più in là non c'è più niente, Luca. Il paese finisce qui. Infatti io veramente ho pensato che alloggiare proprio in paese era una roba che fanno tutti, capito? Roba da turismo di massa, è casino, l'aperitivo, è la discoteca, è uscire, è lo schifo di pattinaggio notturno sul lago ghiacciato. Io se vado in montagna voglio la montagna, quella vera. Allora ho scelto un posto più tranquillo, un po' fuori. Quanto fuori? Oh, poco. La ragazza dell'agenzia mi ha detto che col pullman ci vorranno 70 minuti. E quanto ti è costata questa fantastica settimana bianca? 280 euro. 280 euro a testa? Per due, ski pass compreso. Sì, e visto che ho pagato tutto in un'unica soluzione, mi hanno regalato anche questo fantastico paio di guanti da sci per te. Saranno... Alex. Patrizia, oggi invece l'importante non è quanto si spende, ma come si spende. Sì, perché oggi l'offerta è un'iperofferta. Come abbiamo detto, le aspettative sono alte anche se il potere di spesa è basso. I canali d'acquisto sono molteplici, le persone sono più competenti, capaci, e anche il rapporto con i brand, lo diciamo spesso, non è più così deferente e asimmetrico. Dunque, torniamo al profilo del consumatore contemporaneo, che è competente, informato, sa, conosce benissimo i prodotti e i servizi che compra, anche in modalità deal, è capace di valutarli, di attribuire loro un valore sia economico che simbolico, usa quindi delle strategie creative e si aspetta anche un po' di esperienza di divertimento per fare affari, per scavare e cercare tra promozioni, offerte, sconti, eccetera. Sull'altro fronte i brand stanno usando promozioni, offerte con canali e modalità sempre più innovative, proprio perché l'attitudine dei consumatori stanno cambiando, e dunque fare l'affare e ottenere l'acquisto scontato non è più, come dicevamo, né socialmente imbarazzante né complicato o qualcosa di inaccessibile. Questo è confermato dal successo di tutti i siti di social shopping, che raccolgono sempre più offerte da venditori, e qui si va dalle cene al ristorante ai cicli di psicoterapia, e propongono appunto sconti, soprattutto in modalità coupon, a chi si prenota per l'acquisto. Dunque shopping club, blog, le vendite private, tutte le espressioni di questo fenomeno dei daily deal, le occasioni quotidiane, ha dimostrato in un certo senso che c'era un buco nel mercato, che c'era una domanda insoddisfatta. Nonostante non tutti i target siano attratti dal happy deal, l'estensione è anche in ambiti sorprendenti come l'istruzione. La National Lewis University di Chicago a settembre ha lanciato, ed è il primo e unico istituto universitario al mondo a fare questo, il primo corso su Groupon Chicago a $950 versus i $2,232 del valore ufficiale. Altro ambito non indenne agli happy deal, insospettabile, quello dei prodotti per adulti. Exotic Deals è un sito di prodotti adults only che ogni 69 ore lancia offerte promozionali. Di nuovo, ironia e sconti anche in questo caso. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Londra su sconti e divertimento? Ce lo racconta come sempre la nostra Urban Watcher, Alessia Zampano di Memetic Club. Ciao Alessia! Ciao, buon pomeriggio. Degna di nota in questo panorama di promozioni creative, come l'avete definite, l'iniziativa di Uniqlo, un marchio di abbigliamento e accessori basic giapponese. L'iniziativa è stata parte del rilancio del negozio di Regent Street, che è avvenuto lo scorso ottobre. Per i primi due giorni dalla riapertura, al centro del punto vendita è stata posizionata una sorta di attrazione, una happy machine, come è stata ribattezzata, una macchina della felicità, ossia una colonna trasparente dalla sezione a forma di croce. Ogni braccio della croce era diviso in tre parti, tre ripiani orizzontali, contenenti ognuno capi di abbigliamento diversi. Ciascuno di questi capi, a una certa ora del giorno, è stato rilasciato a un prezzo scontatissimo, che andava dalle 3 alle 15 sterline al massimo, ossia a prezzi decisamente vantaggiosi rispetto a quelli di listino. E quindi alle 11 i maglioncini in lana merino, a mezzogiorno le camicie in flanella a scacchi, alle 6 i cardigan e via così. Un espediente creativo volto in prima istanza a dare ai clienti abituati, ma anche a chi si trovava nei paraggi, una buona ragione per tornare in negozio più volte durante l'orario di apertura, ma anche una precisa e lungimirante strategia dell'azienda, tra l'altro concomitante con l'apertura del nuovo store newyorkese, volta ad alimentare il passaparola, a generare curiosità intorno al brand e rendere memorabile e distintiva la shopping experience. Grazie Alessia. Patrizia, è questa la cifra vincente per i consumi dei prossimi mesi? Sì, e non solo dei prossimi mesi. Gli affari smart sono ormai entrati nelle abitudini, non sono solo un sintomo della crisi economica destinato a rientrare, ma un segno della nuova antropologia dei consumi. Happy Deal, che ha come premessa prodotti e servizi di qualità comunque, perché è solo così che viene valutato un affare, cioè il meglio a meno, si sta anche caricando di una dimensione esperienziale che lo renderà ancora di più saldato alle nuove abitudini del consumatore contemporaneo. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere, riascoltabile e scaricabile come sempre dal nostro sito radio24.it, sezione podcast, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.